Illu! È da fenomeni! Oh! No, sveglio sono, sveglio! Marina e Dommitta! Dormito! Maria, fino adesso non si alza, sì, si è mezzo! E non sto male, è gufo. Sto portando il caffè a Pauletta. Questo qua c'è un film di carcerà. Dove è questo film? Al canale qua, Mediaset qua. Carcerà. Caffè e poi sigaretta. Caffè, pandoro. Mattino, dolcetto, fatto felicina. E sigaretta no? No, sta. Ci sta, vai, ma poi io ne abusavo. Quella mattina me ne fu, alla, io mi alzavo tipo 7:30, 8, no? Così. Ma c'è colato, non sa quale colato e non toccavo manco una sigaretta. Anche se va sei. Cosa? Senti i rumori di portate di veicolare. Quello sì. Non è giù veicolare. Veicolare? Sì, veicolare. Sì, di mano. La giù, di bicicletta. Perché te la bussa? Tu porco di portante di veicolare giù di tu mi sarà comprato. Ah, quei due colpi. Senti, con il buco mi sono perso di piedi. Ma dov'è? Ehi, io. Guarda, te lo sai il film. Inge poco vecchio. E sono i migliori. E gli signori glielo stai finalizzare qui. Vabbè, capiate. Già rompendo di ricattere. Lo sceriffo dei subaesi, ma chi si deve arrivare lì? Ha visto la data rumina a stagna, che l'albergo è al complesso. Ma che ando assai? Sto bene. Mangio un paio di mandorle, mi sono mangiato. Mi aspettava la crisi dell'albero veramente. Non fanno niente, 2, 3 al giorno, 4, non di più. Già sono buone, no? Qua sono buonissime. Lo so. Era tanto le 3:15. Antonella le 1:15. Boh, mi ha spento. No, io l'ho accetto. Perché era troppo più. Ho fatto un d'accordo. Nel tu che posto, come mare, come il sesso. Finalmente mi presento. Buona vita, si abbassa al fondo. Oh yeah. La sta cucinata per la fuggita a noi. No, no. Io ho pranzo l'avvio e ho mangiato. E un po' di bastoncini, un po' di insalata, boh, frutta. Basta. E poco fa mi sono mangiato una di quelle paste che ti ho mandato a pranzo. Sono stracome di crema. Già, lo so. Io mi ho mangiato la pasta al forno. Un pezzo di carezza frutta, a un pezzo, e una fetta di quel pane integrale, con un po' di formaggio, a frutta, salata non la mangia, e una mela, e due, no, secondo non la mangia, e rimane pizzano, e nonno, Marino. Perfetto, sì. Rosmarino. Marino Giovi. Illu. Sì. E io. No. Ma non posso aprire, no, mi la pongo la terra in capo, mi la pongo. Come Maria è il Casimario, se è buono, è con 27. Non apro, ma manco se mi pagano qua. Ma stai scherzando? Già c'è umidità lì. Sa perché? Ho fatto una macchia nera su. Il sapatino c'è un terrazzo, c'è questa gente, no? E lì c'è una macchia. Adesso non so se dipende da loro, boh. Ha un terrazzo. Un terrazzino. Un terrazzo. Un terrazzo come il tuo, grazie. Abita all'ultimo piano, giusto? Maria abita al terzo. E sopra di lì c'è un altro piano. E c'è una ragazza che c'ha un terrazzo come il tuo. Ah, quel terrazzo grande o il terrazzino? Terrazzo. La terrazza grande come noi. Il terrazzo grande. Come quello tuo, terrazzo grande, ia. Ma l'ha fatto luogo quella. Ma sei stato la mia papà. Mettevo sulla foto se vuoi, e niente tu. Quella, amico. Perché non sa questo brutto di scuro. Perché quando è venuta a abitare, che lui stava controllando, non so cosa stava facendo, e c'era sotto questa trame, tutto acqua, quindi là tutto sotto. Acqua nuovo. Guarda, ti sto mandando la foto, aspetta. Abbiamo imbiancato l'anno scorso, perciò Luca è nella... Ma siccome c'è questo angolo e nell'altra cameretta nell'altro angolo, boh, mi pare strano. Ma siccome dipende... Sono... Si fa... Boh, io non li ho mai visti, mai ci sono mari, no? Come mai uscita la macchia? Sì. Ah, è uscita. No. Non lo so, ho imbiancato. Vabbè, comunque la tita ce l'abbiamo, Giulia. Appena il tempo lo permette, si fa questo pezzo, l'altro il resto è tutto bianco. E poi già... Dico, negli altri angoli non c'è il problema, perché se no l'avrebbe fatto anche all'altro angolo, ma non c'è... C'è questo angolo qua e l'altro angolo dell'altra cameretta, boh. In più al centro anche, gliel'ha messo. Sì, sì, ho capito, e vabbè. Appena... Ah, sì. Vabbè, come... Appena il tempo è buono, tipo primavera si fa. Sì, sì, sì. Perché non ce la fa, è meno... Magari quel prodotto che vendono da Brico come tipo potente. Potente sì, e noi siamo di una trama, le scrivere ma anche se la si sa aperta. Lo so. Già lo so. Vabbè, appena il tempo me lo fa, non è che lo stressa. A casa di questi nomi. La camera d'aria, si dice camera d'aria perché c'è l'aria dentro. Buonasera a tutti e due. Si chiama camera d'aria perché c'è l'aria, costa di meno l'aria. E poi il tirolo costa, capito? Il sughero costa, costa tutto, invece l'aria non costa niente. Tu vuoi staccarti di là? Hai tre buchi e la riempi di sughero, ed è meglio. C'è col sughero in polvere, ti fai tre buchi e lo riempi. Ma il fatto lo sai che io ho fatto un buco, no? Per vedere. Un buco 20x20 qua. Stavi una parte, una presa. E arrivi dagli occhi. Allora dove? Non venivo un sacchetto, venivo 3.000 sacchi. E allora, il fatto è quello, ecco perché ho detto, al limite qua. Ti butto pure in punta e spanto come lo sfrutti. Sì, è blocca e non si spende più. E una volta che hai fatto quello puoi mettere il resto, come stai dicendo, si capi. Sì, io devo tappare la base, se no ci vuole troppo. Andrà bene, bene, dai, continua. A casa praticamente il giro della cameretta, la parte della facciata di camera da letto, e del salone. Tutto da fare. Se tu non vai di là, vivi. Basta. Ma chi c'era? Luca c'era. Luca. Ciao Bacchi, buonasera. Buonasera Luca. Adesso mi fai sordo quando parli. Cosa abbasso? Non ho niente da abbassare io. Troppo forte stai uscendo, troppo forte. Oppure sei troppo vicino a me, allontanati. E a che tu ti dà furti, Bacchi? A che tu sei forte? No, siamo vicini, siamo 200 metri, 300 metri al massimo. Ah. Praticamente i più vicini siete tu e coso, Graziano. A un tiro di schioppo, dai. Vabbè. Io sto parlando basso. Se provo l'altro microfono esce più cupa a radio. Ah, quel microfonino c'è infilato. No, no, questo è il microfono suo. Sto andando con il microfonino delle cuffie. Microfono incorporato dell'apparato. E quello dell'apparato, l'originale suo. Non c'è un buffering? Sì, esce forte, no? Il buffering c'è la cuffia. E le cose del microfonino. Già sono più sono. No, già sono bene, abbastanza bene. Graziano, cosa stai usando tu? Nulla. Il bolfeng è fantastico. L'antennino in gomma da 10 centimetri, 10, 12. Ah sì, ho portato l'antennino in gomma. Ma lo sai, cosa, il microfono inserito o no? No, oui. E quando glielo ho messo per provare, inutile camminare tutto tutto. E poi non si fa il ferno molte volte, come lo tirato ormai. Ah, oh, mi dà fastidio. Se mi si messe più comodo. Lo sai, con tutta questa papardella in mano, la fetta. Anche tu c'hai l'auricolare col microfonino perché è la stessa marca. C'ho le cuffie, la provato una volta e col microfonino c'ho anche la custodia in gomma, però se ci metti quella ti trovo che devi cambiare la batteria e mi la devi buttare. Esatto. E questo è anch'io, sto usando il portatile. Sì, ero in campagna, sono sceso a mangiare i cucciucci e poi mi sono risalito. Eia, è bello. A te, Luca Fritto. Allora, si è mangiato il topo, lo si è sentito stasera. Sì. Il topo si è mangiato grazie a tre squalo. Sarà passato i miei cani, adesso c'è un lavoro in più. È vero, c'è i cani, lei l'avrà portato a Platamona a correre. E allora, a passeggiare la risata in diretta. Sì, questo qui me l'avevo già visto. In diretta. In pinnetta è andato. È bello, non sei uscito, a Casereccio sei uscito. Dove va? C'è la signora malata. Male allora. Con l'influenza. Mi fai uscire, se no male pensa che io vado chissà dove. Sta guardando male. Capito. E quella è perché dormite senza scarpe, vedi che dorme con le scarpe e l'influenza non si attacca. Graziano dorme con gli stivali. Dormo con la pappalina, il pigiama, le contromutande, quelle lunghe, calze, calzettoni, dritto. Ecco, e gli stivali non te li metti? Esatto, due calze, pezzi grossi, fisicamente avvicinati, e poi vi dormo un bandone. Ricca, le influenza non attacca, non passa chi vino. Vabbè, dove vai tu? Io non so dove andare, cosa. Quindi la macchina, beh, usando la usciana come la passeggia dell'Azzurra, quanto di macchine. Tutti i vivi andai. Ah vabbè, potrei anche andare, ma da solo non va. Non va. Arrivo un amico così e poi un giro. Un amico. Ma che pensione, il primo periodo andate alla città mercato, alla piazzetta. Non la calcuno. Insomma, me ne andate anche io, nel supermercato, in menù, a casa. Davvero, talmente mi sono stufato, non penso così andare, ma sono venuto. Lo so, ma comunque ci sono discorsi, eh. Bisogna farci un giretto, appena incassiamo qualche soldino vado. Mi dovrei comprare, adesso vediamo, un'altra frutta. Un pantalone così, qualche jeans, almeno ce li ho, magliette ne ho, ne ho anche da vendere, scarpe, un altro paio di scarpe, un pantalone, una tuta. Oh, la di poco roba, la tua roba non mi nasce, se non la vengo mai mai tutta, fai cazzati lì, ah no, non mi senti tutta, sto tutto, ma tutto è a te. Io, c'hai tutto. E no, ma bisogna spendere i quattrini, grazie. Se no si mucareggiano, li prendi, li compareggia. Abito nuovo, scarpe nuove, quelle ride lasci ai poveri. Ehi, qua, mi ho regalato 4 o 5, mi sembra, gli altri. Nuovi, nuovi, completi, forse massimo 2 volte. Non di più, per alleggerire l'armadio, infatti me ne ho tenuto uno e uno spezzato. Un po' si l'hanno regalato di Marchetti, lì il mese scorso, no, due mesi fa, mi ho regalato lì, ancora con il volantino attaccato, il bigliettino, un bomber e un altro giubbotto in pelle. E nero, tipo quel giubbotto che si aveva col cantante che è morto, Bobby Sowell. Chi era morto? Non lo so, no, non sono al corrente della musica. Intanto se la butti le cassonette non hai fatto niente, se la dai ai negri è come ti danno un bacio ai giurichi. La dai a qualcuno che conosci e se li mette se ha necessità. Qua, questi ultimi due li ho regalati a un signore che lavorava in un supermercato che dice occupato, l'hanno licenziato, diminuzione personale. E gliel'ho regalato. Ah, nuovi, mi sono il bigliettino ancora attaccato. Poi ne avevo quelli più mini. Cazzo, quando mi ripugnava, abbia un robot. Nuovo, mai messo quello, ma se ce l'ho misurato. Non mi piaceva come mi stava. E ho regalato anche quello. E poi anche gatto, già l'avevo, un bene ho regalato questo. Un bene. Pochi non li fare più. No, anch'io, la roba che non mi stava per questo inverno l'ho regalata. Jeans, magliette, roba varia. A uno vicino di campagna che è un poveraccio che non sta lavorando, è disoccupato, variamo, faccio i pantaloni di jeans e io penso che più pinga attaccato che stoffa. Hai detto, niente, ti regalo un paio di pantaloni, manco qui è apparuto. Poi te ho guardato, ce n'erano ancora altri, li ha tutti portati, anche il giubbotto. E adesso devo controllare un po', roba che non mi sta, come un abito, è stifo, non mi serve più. Forse pure, lo regalo, una voce mi faccio buccia, fa un matrimonio, e poi si fa più caldo. Anche io, pure l'abito del matrimonio, l'abito regalato, cosa? Due volte, nuovi, ne avevo due paia di quelle, lo stesso, li ho regalati. Sempre la gente che ne ha bisogno, però. Pure la signora che conosce mia figlia, stessa di questi, stessa. Si fa una vacca di figlioli, il marito di questo quarto. A quella gli ha dato un sacco di roba anche mia figlia, per le figlie. La moglie. La roba che magari non ci mettiamo più, oppure se mi è stretta, cosa mi la tengo a fare? Ma poi ero pieno, troppa roba, adesso a primavera ho fatto una pulizia. Avete da fare pulizia da fare. Tronca avanti. Ehi, Vabbè. No, io già ne ho lo stesso, io giubbotti, io magliette ne ho, anche che non ne metto più, buttate a casa. Comprate e messe boh due o tre volte, su Gubbieno. Vabbè. Cosa ci vuoi fare? Anche qua ne ho portato qualcuna, no, ma io ne ho magliette, qualcuna ce n'è. Compro, poi alla fine. Allora, prima io usavo le polo, quelle di cappa, no? Poi la, non, sai, con troppo caldo, siccome la tengo col colletto sollevato, no? È un'abitudine. Infatti mamma mi dice, ma anche tu non sei muore. E allora da qualche anno a questa parte sto usando quelle a girocollo, là, quelle normali. E quelle la polo è conservata. Quelle quando fa freddo. Quando fa freddo, se fa nevica, si mettono quelle lì. E allora? Vabbè, riprendete voi, io mi assento una ventina di minuti, prima che ne ascolto. Vieni, Luca, vai pure, tranquillo. Capito, ringraziamo. E così, lui è un poveraccio, quello vicino di campagna, dunque, opere di bene se ne possono fare, capito? Il capo vuoi tranquillizzare, capo si va con i tutti i cazzoni sui piani. Dalla due sentito cosa era successo. Capo l'hanno trovata in piazza Alessini, in piazza Tola, con la roba che se la stavano rivendendo. Dalla due sentito. Ma abbi la voce. Ah, presente dalla povera civici, che pure gli anni, non li do, non se ne borgo più. E poi, a parte quello, ho visto quelli che ci sono qua vicino al trenino che è stato in giallo. A dare giù l'hanno appeso, mi hanno girato le luci e ha detto, certo, chi dice, volendo girare roba, lasciala nella casa di stare in terra, di stare. Ma ve la vuoi. Dopo ce la vendere, dici, l'ho presa, dopo ce la vendere. Non vedi niente, non guardi. Ma io sono ragionito, infatti ho girato pure una termometrica di mio figliolo, che non trattava più, ma era in giambati, era in casa, era in societaria, era amico, ce la vuole, mi piace buttata, la ci ha misurata, dice poca bella, i casini di altri del calcio. E allora, preferisco anche io dalla tua, un po' varato, gli studi, che si dà pulizia la vita. No, ma io molta roba già la regalo. Per esempio, quando mi ha mangiato i bacconi, l'ha già regalato. La porta a finestra di cucina, l'ho cambiata, era in legna, però era nuova, l'ho regalata. La finestra del bagno, Romacchi, nuovi, l'ho regalata. E lì si era stampato in casa lui, e si era tutto passato. E mi sa, la tua domanda di vita, io so che io volevo, io non ti dico. E molta roba l'ho regalata, e va, e già. Tanto lì, non ti vado, né ricca né pura. E quando è roba buona, che ancora è musica nuova, e non ti sa più, cosa dai a fare l'anfattina? Da là un poveraccio se continua a punire, capito? Continua a vivere anche lui, come questo vicino di campagna, dove andai a roba io e poco è contento, a chi mai travagliente, disoccupato, un montone d'anni senza travagliare, fa già che sul lato ogni tanto, lasciamo che ci hai regalato due pacchetti di sigarette, a me mi hai regalato, io non fumo, le ho regalato a Edo, e tranquillo e beato era. Beh, io lo stesso, quando ho cambiato la cameretta a mio figlio, quella che ti ho dato era tutta in macello, tutta in legno, la durata a me mi voglia che non aveva cameretta, aveva l'uretto e il mobiletto. Ma dici lì, si è smontata, sali su e porta tutta la vita. E tutta tutta la puntata. E io avevo preso un mobile apposta per mio figlio e ci hanno tuttora quello. E gli davi la regalata completa, armadio di elettriche e quelle che io gli avevo fatto a cassello. Però li ho riportati a normale, a due elettriche, la scrivania, lo sciapello, i comodini, tutto il massello, meno valigia. Senti, la piazzata che ci dicevi, questo è un contributo di lui a chi? Uno operava il bene, non è avversa. Anzi, questo non si può fare, si fa. Capito tanto? La buona è un gassonetto, ho avuto la buona a fianco un gassonetto, si arampani. Si arampani la roba, non accogli. Ne accogli chi tu, se ferro ne accogli, ma legna, nessuno non accoglie legna. Ma lei ci sta il legno, non va, non va, me lo va via un pizzo. Se ce la facciamo a Portobello, si la viene a Ralfa da lì. Era non va nulla. Solo che le figure che erano incuffati, stata la scaletta, lì da cuffiati. E allora gliel'ho comprata e gliel'ho cambiata. Ti la dico 20 anni, ma in 20 anni non va un pizzico, E bene, vedi, è la roba buona. Se così anche piacere riceverla. Ma la gente non ma così ne vuoi. Hai sentito se ho fin denti. Come la cristalliera che mi sto vendendo. Ti la vedi, non va nulla, non sei cantato in bata, la vacca di vina. Immagino, il legno costa di più, costa molto di più. Ohia, è così, la vita è così. Quella che ho preso di circolare, già è bella, moderna, estetica, come si sarà adesso, vabbè. Magari tu dai a piedi legno e vai a intrucciolare. Ma chi il legno non li fa bene più, non fa bene trucciolare. Allora, non c'è chi può trucciolare. Come c'è chi sta già a quella? Va bene. Guarda, mi dura la quella, non è un bambino. E beh, è chiaro che è dura, bisogna trattarla come si deve, no, fa dai piedi. E poi non è trucciolare, è meglio densi quello lì, quello grigio, quello di trucciolare grigio. Ce n'è anche un MDS. Ma lì c'è il trinciolare, ragazzi, c'è anche un nostro inizio. Ormai, perché è più facile la lavorazione di quella legna lì. Fatene a pezzi in tre, tagliani e via. E beh, quello che ci sta, lo scarto della legna, la segatura MDS, segatura di fine di giugno. Però questi giornali di quel mese, io ho visto come li fanno a Udia, quei panni di trucciolare, ma figli quel mese, tutte le forme, impastano tutto con la folla e poi sta a venire il bambino, poi gli altri vanno lì. Sì, li fanno lì a Udia, non li visti fare, capito? E come la carta allora lo fanno, se hanno mancato la batteria. Adesso c'è la batteria. La batteria se n'è andata, grazie. Sì, adesso la metto a caricare. E va, è durata da Bluetooth. Ma devi fare, scaricando, la radio la infili nel caricatore. Sono occupato per il telefonino con la presa, allora non l'ho ricaricato più. Capito, era occupata. Perché durano poco sul cavolo di batteria, durano poco e niente. Praticamente mi dica, mi ha atteso stamattina, un paio di ore, stasera verso le 3:15, parlato mezz'oretta con Antonella e con Leoncino e adesso. Dammi le 8 che c'è batteria. E quante ore durano? 4 ore. Non ci durano 4 ore. Oh, se stai parlando sempre no. Ma che ascoltami, non ti credere. Molte volte che ero a casa che non entro, sto facendo cosa. Fino ad Roma stessi. Sono acceso per ascoltare. Consuma anche quella. Eh beh. È fatto così questo qui, se ne scende subito, se ne scende, io lo sto usando il caricabatterie e va in corso, entrando e uscendo la corrente. Dottor, l'altro giorno l'ho messo in primo sì a carreggiare, perché la libera l'ha presa. Ma sì, dove è caricata la batteria, quindi non fermo il cuore, non dà fastidio, capito? E allora l'ha fatto sempre lì, l'ho assoluta la batteria, da nessuna si può guardare. O sono molte volte, se non c'è nulla, io mi devo sentire il telefono direttamente. Dal telefono, la radio direttamente a caricare, anche se non l'ha avuto. Ok, chiaro, allora la tieni in carica. La tieni in carica. Io l'ho caricata ieri notte. Lui si sta di butta a caricare, già a quando carica. A cano sta a Londra, sì. E sta più, se no pure a Londra di lì. Perché carica lei, capo? La carica io la sera quando vado a letto le inserisco e lascio accesa e si spegne da solo poi. E anche quando è carica rimane verde, si dice che carica e no, non carica più. E lo so, ma io lo stacco però, quando è verde lo stacco, non so dove attaccare, anche se attaccato non lo so se si stima. No, io l'ho sempre attaccato, vivo dal letto, la mattina quando mi alzo lo stacco, vedo che la luce verde è caricata. Io quando vedo che la luce verde me lo stacco, non lo lascio attaccato se non devo caricare. Una volta che carico la corrente non sta più prendendo, diventa verde la spia, ha finito. Sì, già lo so, già vai, arrugliato. Ma andava oh grazie fastidioso, va perché animati di là c'hai da 3.008 la batteria 2 a 3 di così c'era scritto, ma tu c'hai la batteria doppia grazie. Me ne avevo preso 2 batterie, una per il ricambio quando era scarica questa quando me l'ho ordinato. Ah, ok, no, no, ne una sola e la carico man mano che si scarica oppure la notte la inserisco e così via. Io insomma a piedi è arcuzza, andava bene, ma non c'è nessun altro grazie a noi giù, Gio Maria non si è sentito, ha mangiato panettoni sta. Non lo so, sarà uscito, un po' ferito e poi si è addormentato. Perché ti conviene ordinartela da 3.008 volt la batteria e così ce l'hai che ricambio quella di 1.008 la tieni riscossa. Beh, ma questo lo uso poco, capito grazie, lo uso l'altro messo su, questo lo uso poco e niente. Vabbè, io per questo, cioè, se l'ho ordinato ne ho ordinato 2 batterie, costa 16 euro, quella che ti fa 3 giorni, è bella grossa. E non è del costo, costa più il trasporto che la batteria. No, il trasporto se spendevo più di 30 euro era gratuito, da Amazon. Ah, Amazon ce le ha. Sì, tu guardi dopo la batteria, però devi fare una spesa minima superiore a 30 euro, quindi 35 euro, non so se ci serve altra cosa, fai tutto insieme e il trasporto è gratuito. E solo che non c'ha antenne, non c'ha microfoni, non so se ne ha amato i microfoni. Sì, e ce li ha, c'ha le vite. Dove c'è, come trasportato l'ha appoggiato lui, sì che ce li ha. Poi ci guarda la macchina, vedo un po'. No, perché mi servono delle capsule per il microfono. Ne ho 2 microfoni che ci sono partiti altre 2. E dunque le volevo sostituire. Solo che devo ordinare solo 2 capsule, ti costa più il viaggio che la capsula. Beh, se lo dicosi no, è logico. E poi come primo cliente lo stesso, Oh, il trasporto è gratuito se sei il primo cliente. Si fa l'iscrizione e il trasporto è gratuito. Ti iscrivi, no, tu ammazzoli, non parli niente. È il primo trasporto perché sei il nuovo cliente, è gratuito. Poi va pure così. È così, l'ho visto. No, l'avevo ordinato l'anno scorso, non mi ricordo da quale, da chi l'avevo ordinato. Ne avevo preso tre, mi è costato più il viaggio che la capsula. Su eBay, io sono scritto anche su eBay. Su Amazon non è scritto. Siccome ha diritto, come primo cliente. Se ti iscrivessi e mi sono iscritto lì e ho fatto quell'uso. Ah, ecco, bisogna scriversi, no? Come è stata l'intenzione? E cos'è? Avevo ordinato un'altra cosa, un'altra volta, non mi ricordo che cosa erano. Ah, i microfonini delle cose, delle radio. I microfonini avevo ordinato una a me e una a Marino. E quelli mi sembra sono arrivati gratis. Ehi, aspetta un attimo, lei mi hanno mandato un messaggio, 13 da GMR. Aspetta un attimo, batti, sono 5 minuti. Lo sai che sia? Viva, viva, viva. Ebbene, non sei uscito da quella con le mani che ti fanno male? Sì. Ehi Mario, mi dici a mezzogiorno quando mi sono alzato? Ehi cazzo. Sì, mi stavo appena alzando, figurati. Non ho risposto per quello, mi stavo appena svegliando. Hai capito? Se no, stai tranquillo, già ti avevo detto, al limite anticipami i soldi per te l'avevi dati. Mi stavo appena alzando, ero in bagno, me lo gaggendi. Sì, vabbè, un altro giorno me ne prendo, vabbè, non è che le avrei cucinate oggi le sardine, c'avevo il pollo, c'avevo cosa. L'altro giorno mi sono preso la farina davanti a casa tua quando sono andato lì, al circo da fianco a te, figurati, Marco ho cenato la notte, l'ho regalato ad Alessia che è incinta, lo sai, no? E se le mangiate tutte le 5 euro di farina con la cipolla, dove sono le aziende? Grazie Alessia, non altro. La fare con la cipolla, ho aspettato lì la vittoria, già lo sai, era anche bella la verità, ho pieto 5 euro con la cipolla e ho aspettato, non manco 5 minuti aspettato, stavo scendendo appena la teglia, l'ho preso al volo e gli ho detto la porto a casa, e invece poi sono salito da Giovanna e gli ho detto le vuoi? Dice ma zio con la cipolla, t'assaggiala, cazzo se l'ha mangiato tutto, se l'ha mangiato. E non è roba salda, già lo sai anche tu, arrivavo da fuori, deve essere roba delle Canarie, qualcosa del genere, dice, già lo sai la temperatura che c'è tutti gli anni e stanno bene, guarda. Non so quanti ce ne sono lì alle Canarie, a cosa, tutti pensionati, chi con 800, chi con 600, campa con... paga 100 euro di cosa, di affitto. E quello se ne vanno tutti lì. No, non ce n'è, no. Oh, Mario, non ce n'è, no, Sardegna da Bosa. Ho chiesto io l'altra volta, Sardegna e Sardegna proprio non lo stanno più pescando nessuno. Qui a Fortidini è roba spagnola, Non è che sono fresche, è roba che magari pescano da fuori, la mandano surgelata e poi c'hai quel periodo giusto 3-4 giorni per poterle consumare, capito? Le fai fuori così. E già lo so, già capita il giorno magari che mi sveglio presto, faccio un giro a città mercato, magari le trovo anche, di solito lì le mettono il venerdì, se ti ricordi bene, il sabato, e venerdì e sabato le mettono, quindi... Le abbiamo comprate parecchie volte, già lo sai, noi due, erano anche belle. E mi sono svegliato tardi, ma vabbè, la verità mi sono coricato anche tardi, mi stavo guardando la televisione, io mi sono addormentato verso le 2:30, capito? Quindi mi sono svegliato a mezzogiorno, non lo so. Ah, veramente me le sto bevendo adesso, quelle che erano rimaste l'altro giorno, tanto per essere chiari. Non sono così scemo, le ho bevute tutte, a parte ero tutto il giorno in giro, che l'hai vista anche tu. Sono sceso giù da te, ne ho bevuto una, poi l'altra ho bevuta vicino a casa tua, dopodiché ho preso le affari e sono salito a casa col tram. E poi sono entrato a casa. Non ho manco mangiato la birra che mi ha dato quell'imbecille era congelata, quello a fianco a casa tua. E mi ha fatto mal di stomaco. E infatti già c'avevo mal di stomaco la mattina. Adesso ho visitato con mal di stomaco, aria, e non ce la facevo più. Tutta la mattina ruttando, ma la camomilla mi ha fatto un cazzo. E infatti, ma come non ho mangiato nulla la sera? Se avessi mangiato qualcosa di caldo mi avrebbe fatto accussi, come minimo, perché l'altra volta avevo preso... Mi sono bevuto una birra, poi sono salito a casa, mi sono mangiato la pizza che mi sono fatta arrivare da fuori. L'ho mangiata bollente, tutta davanti la diarrea, fino alle 3 di sera, cazzo. A Antonio Macuri, io ci vado a fare Antonio Macuri, non ci vado a fare niente. Non ci faccio nulla Antonio Macuri. La cosa è che ci sono tutti fuggiti, sono tutti di nuovo qui, mi. C'è quello... Il vigilante è rotto un alcolizzato, amico suo, il poliziotto, c'è che è in pensione. Se ne sono tutti andati da lì, si sono bisticciati. Sono finiti quei tempi, adesso non ti preoccupare. Grazie, sei a casino. Hello. Guarda che devi fare il fogliuse nuovo, mi. Vedi che è cambiato tutto, cioè più o meno tutto. Quindi fate il fogliuse nuovo adesso. Già ho capito il foglio, vabbè quello deve presentarlo per il foglio UISE, quello lì, ciò che ti è rimasto in pratica. E io lo so già, di là a me, avevo fatto l'anno scorso già però l'avevo fatto, quel foglio lì, capito? Fanno i conteggi di quanto li tiri ogni mese di pensione, e vogliono sapere se li tiri in più, se li tiri in meno, eccetera, eccetera. Che poi adesso speriamo bene che lo tolgano questa cacata qua, perché non è possibile vivere in queste condizioni che ti controllano anche il buco del culo. E non sono scemi, no? Mica li controllano quelli. Specialmente i dipendenti regionali, capito? Adesso alle loro edizioni vado a leccare il culo a tutti, amico mio, tra dove va la lettera, mio conoscente che ti ho conosciuto tanto tempo fa, votami, tu sì che sei l'amico. Io invece come avrei ricevuto la lettera, siccome adesso mandano le lettere, fra poco già lo sai anche tu, per le politiche, avrei preso e l'avrei risposto, tanto che non mi hai cagato tutto l'anno. E sono venuto da te e non è manco cagato, cioè fai la cosa, adesso il prossimo anno faccio un partito nuovo, il partito dei magnatori, vedrai tutti quelli che sono disoccupati vengono da noi, vengono, sono tutti uguali, l'hai visto Renzi, sì. Non vuole a Berlusconi e poi vanno a cena assieme all'Arcore. Come è capitato sempre, poi Renzi va a Canale 5, non hai capito nulla tu, no. Sono tutti solo per la poltrona, e basta, non per altro. Per salvarsi il culo, prendersi 5 anni di contributi lì alla regione, chi se ne va al comune per avere un secondo mandato in modo da avere la pensione, e poi te la prendi in culo. Io a posto tuo mi sarei candidato, guarda. Avrei fatto casino, mi sarei candidato. Stai tranquillo, ti avrebbero letto, se ti avrebbero letto, stai tranquillo, avete avuto una bella pensione, altro che 500 euro al mese sarebbero stati, avessi fatto pie agli altri partiti. Già lo so, la Roma, la Milano parte, come ha detto quel giudice, parte la Milano e il nord, la mafia nel nord, e basta, capito? E cosa gli fanno? Ma di gratta dei capelli di gratta. No, fino a poco fa c'era la gente, poi adesso non ho visto, cioè sentito nessuno per il momento. Luca! Fra poco passa qua a prendermi. Facciamo un giro. Già passa qua, mi telefona, ha detto, capito? Già ti chiamo a portatile per quello quando sono in macchina. Ecco. Anzi me ne piglio due, una anche la parte tua. Così a casa che arrivo sdraiato, col freddo che c'è fuori. che era un freddo qua in camera oggi, mamma mia, cazzo, da morire ce n'era. Anche se ho fatto il forno per il cavo c'è sempre freddo. No, non l'avevo acceso anche perché me ne andavo in cucina, capito? Me ne accendevo in cucina, guardavo il televisore in cucina per non entrare in cameretta. Siccome Tommy c'è il vizio di quando entra lì, quando arriva Daniele di pisciare la cameretta, allora prendo, la chiudo, hai capito? E quindi in camera non c'entro quasi mai, anche perché è piena di scatole, già lo sa, la roba che c'è in garage l'ho messa tutta qui. Non si sta parlando, bello bello. Ma che trufo! Ehi, lui! E cosa ci fanno? Ci fanno, Antonello stava ascoltando, Antonello! Ehi, dimmi tutto, grazie! Adesso lo stai parlando? No, sto parlando con Mario! Ah, Mario il Moro! Mario il Bono, sì, il Bono, Bono proprio di Milano! Ehi, non lo sentono! Digli a attrezzarsi! Adesso ho detto che si piazza l'antenna nel giardino, vedrai così già arriva, è stato già di antenne di Mario, lì a Santa Maria, voi le antenne per la UHF. E allora che la piazzarla perché non si sente qua, non lo sente neanche lui, lo senti? Sì, anche lì passi di Pumaletti, un vicenni, altro che. Era ora, almeno ci arrestano tutti e andiamo dai politici. Ah, a me non mi dicevi neanche lì, anda così, anda, sino pazienza, ma puta sai, tanto, ogni tanto ci disturbano anche qua, che alla fine non è che ce ne freghi più di tanto, Allora, così bisogna fare, cazzo, Luca, così bisogna fare. E noi ce l'andiamo alla 27 o alla 24. Oh, il 27 non conviene più, ma con cane, cosa, con che parli? Con muro? Che già parli, io ieri l'ho acceso, l'altro giorno l'ho acceso, ho chiacchierato con Marco, con un fantasma. Se non c'è manco propagazione più il 27, ma cioè, sembra una frequenza morta, sembra. Già viene la primavera, arrivano tutti, adesso perché c'è freddo. Fai una cosa, guarda, l'unica cosa che ci parlo tu Falcone, gli do il baracchino, gli regalo, così entra il 27. Sai, tranquillo che si riempie subito la 27, te lo dico io, in 5 minuti. Ciao, aiuto, con Giulio ho parlato l'altro giorno, con Franco Di Sorso. Ci mancano le donne, 27, se tu ci metti le donne, sai come radio gli avvolturi. Non è legato. Se per molti la prendete ne ricapettiamo un po'. Io e Luca le mettiamo. Bene va Luca. Guarda che ragazze ce l'hanno mi, le PMR, le ragazze lì che ci sono le brasiliane mi. Di centro storico, c'hanno tutti il PMR c'hanno. Quelli della Brondi. E sono bello, ah, e mai se non si. Parlano tra loro, mica parlano con noi, no? Ci sono 8 canali qua, non è che ce ne siamo tanti. Io ne ho 2 di questi, però li ho conservati, non vedo mai nessuno. Quello si può usare quando piazza l'antenna, uno su, uno giù e boom. Ma tu sto dicendo, le ragazze brasiliane giù al centro storico, c'hanno il Brondi, c'hanno. Hai capito? Quindi... Lo usano, non è che non lo usano. È pieno di PMR a Sassa, se no basta che fai nei negozi, da ogni euro, da coso, giù a Pedanietta, dove c'è Talit. Tutto pieno di appena entri dentro al negozio, tutti guardi, appena entri nei guardi, ci sono tutto pieno di Brondi. Lo usano tra loro. Già lo so, vedo pure da Conforama che fa gli uffici, nei negozi già ne hanno. Ma la gente bisogna avere il filare. Te lo sto dicendo per quello, non per l'altro. È tutto pieno Sassa di PMR, ma pieno messa che non è reato. Ce ne sono i cantieri, ce ne sono gli uffici, tutto pieno di blu, di cose, di quei portatilini. Già lo so, quando ce l'avevo qua, me l'attendevo. Parlavo sempre con un ragazzino qui di Sant'Orso, è uno dei miei figli. Poi l'ha disturbato e non l'ha disturbato. Ok, vabbè, dai che riprendo dalla macchina, ci sentiamo fra poco. Sono a farmi un giro. Ok. Luca, ci sei? Cosa stai facendo? Luca Rufo. Chi lu? Patiglio, mangiando stai? Ok. Patiglio, dove sei? Ti sei contando? Oh, domani non sei, ci sarò qui a passeggio. Domarina. Qualcosa, ascolta. E beh, mo ci siete. E beh, grazie. Ehi, io. Mica sto facendo merenda. Ah, oh, io ne ho preso il caffè poco qua. No, so se non c'ero. Ci sono sempre mangiando, il coraggio di noi vi guardi, no? Io sempre mangiando, ma tu la mando da poco qua. Adesso mi ci mangio l'altra metà della pesca. Vieni, mi mezzo chilo. E tu ancora mangia. Qua. La pesca buoni buoni pesante. Buoni. Buona, buona, buona. Fiume di crema. Luca, Luca, ciabatta. Luca, fritta e mangiando. Ciao Marina, deve essere invitato. Non senti? Sono già fatto. Sì, c'ho come il bandoro io. Magna, magna. Magna, magna, inteso è Luca. Beh, allora me lo mangio pure io, così impari. Devo sonire. Ebbe da manna la fetta, eh. Lascia le magna in pace, da voi vi conosco male. Mi lascio pure io, pandoro spumante, i datteri. Chi se non laggio, chi se hanno laggio, Ma è ripreso domani. E vi lascio tre bacchette. E una l'ho aperta ieri. Dai, là. La sei mangiata in pace, però, E c'è chi meglio che ti mangiassi ieri. Ma buona la pasta. Questa volta ho cenato. Sicuramente mi verrà fame. E allora vado per il maggioritario. E domani mattina presto mi devo alzare, lì sì. Per essere in tempo andare al lavoro. E la bella Natale che non sta a oh, mi devo svegliare e sempre girare il cuscino, capito? Quello per me è un lavoro. Ah, a me danno lo gira. Voglio drop, poi su cusuro, Io per te che c'è il solo, soletto. Marina mi dice, che controlli di tu? A chi cosa sei, Marimo? Ha ragione, aspetta che mi taglio una fetta di pandoro, così impara, se no quello là da qui è geloso. Ma quello? Ehi, io aspetta. Tornare giù, Luca, tutto il zucchero, filante, Go, filante. E il zucchero quello bianco in polvere. Buono, buono. E da voi saluti, Arseni. Se non ho voglia, mi faccio un pezzo. Proprio perché mi devo fare l'insulina. E una fetta di... Sì, dico. Che stanotte si mangia un crocco, Graziano. Aspetta, vado, metà teglia di pasta al forno. Ancora. Bello bene. Mangia, tutti mi hanno fatto la mangia, tu? Graziano ci mangia un crocco lui. Già, sapete se a me Giomari, a me ti dico che non sempre mai niente, boh. Ma io vado per me solitario, capito? Ecco, ma se sempre mai niente. Assaggia, allora che mangia assai, no? Però comincia, assaggia chi là, si accanto la sera, e ben duddeccio. Capito, ecco, dico non mangia, e mangia, Eduia. Sì, già lo so, ragazzi, visto, va. Già per carri. Avvio. E la verità è bello bene. Ciao Giovanni. Ah, ti ha buzzato, quasi quasi non mi dà capandolo. Cazzo del culo che mi mannani a capo. Ciao Rupo, a sera. Ben sentita. Ciao Rupo. Ciao Lore. Ciao Luca. Ti ha messo buzzato il pazzo con il culo pandolo. Tu il vecchio, ti ha cammino a me. A chi ti ha buzzato il pandolo più sul capo. Ma tu buzzato sera, Catria. Bubu. Porra piovu, Ru. Pensa a piovu quel ragazzino, cazzo. Non parli, bello bene. La festa con mangiata a tutta. Ma te, tutta se l'ha mangiata. Allora, io lo so che avevo una tazzetta di sfumante frizzante, però, eh. Ma non mi tocca più a questi giochi munelli. Pensavi tu, Ru, pensavi tu. E sono due bocchi rossi. Se c'è dai, diventa bocchi rossi, sì. Luca, non sono i bocchi di Gino. Vai, che vi bocchi, ho brincato che ci hanno in tondo. Buono, buono. Paolè, tanto non fa più un paese. Sai, il problema che ha non è che può abusarne. A mamma, cioè, perlomeno, io sono qua e mia madre non so se ne mangia. Però quando sono io a casa non la vedo mangiare dolci, assolutamente. Zucchero ne mette proprio una puntina nel caffè o nel caffè latte, ma una puntina. Che anche se gli hanno detto, il diabetologo gli ha detto che per lei è veleno lo zucchero, Ciao, però, vivo. Giovanni, non si può fare né caccia né nada di Graziano. Ma io lo so di avviarmi a lui. Lo sapevamo già com'è Graziano, per carità. Non si può fare né pile né lano che ci bisogna, che c'è, c'è. Ah, ma intesa a me, ma niente, un bandoro si l'ha pigliato buletto. Un pappagallo. Sì, la salvo qua con la rete, dai, quello non ha bisogno di nutrirsi, sennò a voi si rimaglieggia. Ancora, cazzo, allora matisco. Adesso è rimasto il pandoro con la crema. Ah, vero, e non mi tocchi mi dato con la crema. Ma è te di lui. Cosa dobbiamo fare la vicina? Sì, io ho già finito di pranzare, vai in primbai nella mezzogiorno. In bagno a farmi una doccia, un capo, ed ecco il pisatino, i miei fammi di rivera, quando già via. Ehi, corale, ma non vedi. Molla che su bandorando la valle di schina, vai. E allora, no, appena lavami la finanza, e non si scuro, tu posso dire la doccia a capo, mica. Grazie, ma lo zucca la fera, un po' ci virai, il bandoro. Allora, tutto posto. Ah, ma io so che mi con tutta la faccia piena di zucchero, capo, pure la bassa. Oh, yeah. Una super festa era, buona vita. Io l'ho comprato uno dalla Maina, ma è ancora chiuso. Gli ho detto a Marina se lo voleva, no. Ha preferito il panettone. Ma comunque, canna la mugana, sapri si magna. Già non si guarda, un becco non si guarda. Ah, noi abbiamo due in magazzino, mi faccio un padrone e un panettone. E un altro mi dirò che l'ha già messo in tasca di mani. E l'avevo mangiato una fetta a Bellomino, non l'avevo mangiata. E però dice panettone della morte, c'è ancora va bassa solo però, senza frutti canditi. Domani cosa hai detto? Forse abbiamo parlato assieme. Ha detto, l'ha già due in magazzino, un pandoro e un uomo. È un panettone. Però c'è quella babassa lo panettone. E che si no, chi su quei no che buono che l'ha già messa tra le mani, chi si vuole quella babassa? Anche quello frutto candito non piace, manca a me. No, a me manca a me, le scorze d'arancio no, l'uva passa sì. Con l'uva passa te lo mangio, ma con le scorze d'arancio, pucci, non li mangio, non mi piace. Ehi, dove la sai male mi ho mangiato. Così che si tocca domani la sciafetta te la mangiamo là. Me l'hai mangiato, agli allo 3. Vai. Ma poi c'è un mese che non hanno senza mangiarli, eh. E se non si guardano, me ne sono rimasti due. Uno con la bottiglia, quello è Pandori. Nella confezione c'è anche la bottiglia. E l'altro mi pare che è Barocco. E a questa se si guastano. Ah, ci a mettere mesi su di luglio. No, Giovanni. Ah, no. Oh. Non è primo. Oh. Questa casa è, non sarà più come sei prima. Boh, bisogna controllare che dicate lì. Allora, prima è caduto, bisogna farlo pure, Luca. I quattro scape, io li ho guardati a maggio. Sì, allora manco un cassone, manco un cucciolo più. No, no. Perlomeno quelli che ho io li ho guardate le scadenze. A chi si cadia prima me lo mangiavo prima l'altro, un primo. Invece quelli che ho scadono il mese, il 4. 4 aprile allora è. E 4 aprile scade. Ma non va arrivi a aprile, no. Ero passato gli anni fa, mi pare, stavo a fare la ricarica a campagna, cioè stavo a fare 3 o 4 in base. Che avrà fatto a mangiarsi? Non saranno. L'anno passato la gente di regalarsi, ne aveva una marea. Ne ho presi troppi l'anno scorso e li ho regalati tutti. E qualcuno ce l'aveva tenuto noi. E poi, quest'anno non mi ha fuggito, li ho presi più poco, e infatti ne ho dato, uno l'ho dato a quei muratori che stavano facendo la piazza qui l'altro giorno, un panettone e una bottiglia di spumante, vi ha domandata, ci sta arrivato la bancata e le mani in buca, e la dice, va a regabire, anche rabbia mia, non manco un vaso di vista per voi. Ehi, ehi, dai, là, ci sentiamo dopo, là. Ehi, lui, a che sì? Io ci sono, sono qua. L'altro giorno le ho mandato a quei muratori che erano lì, non li ho visti, sono passato la bancata e stavano arrostendo e mangiando. No. Le basse già ne batte una rossita qui a via Nicinizzi. E la dice, vai a fare a vino, un panettone, una pula di spuma. E viene a farata, la dice, e farà da barata. Vai a mangiare anche lei, mi sto bistecche, bistecchine, no. Ha detto, mio marito, a mangiarvela, a bervelo. Il fumante e la insicurazione e la bella le magnate ma era nel sì e uno parlava racchino si chiama Gaetano oh e se veniva nel lato di un fatto la sopra più sotto ai nostri hanno fatto la vacca e hanno fatto una bella arrossita e hanno fatto una bella magnata e ho capito vabbè meglio usi. Ehi, tu vabbè a pure io quando ero quando faccio volare così, a questa casa di un giorno che non vedo il padrone, in campagna, quando era l'ultima di, o la penultima giornata ci facevamo una bella mangiata. Mare era gustica. Anche quando facevamo il gettito, i cassi a sviluppo, che non li avevamo fatti, li facciamo i bistecche, pancetta, salsiccioni, vino, birra, sempre. E allora io non l'ho visto, ma Gaetano sei tu, e chi sei tu? Luca, stavo parlando con lui. Ehi, no. Ma Gaetano dov'è al monte? No, a Bancali. Non me lo ricordo. Ehi Gaetano, ma stava sempre a Canale 5. Adesso non me l'ha messo, magari da un mese non si è entrato. Boh. E mi ha detto non c'è più nessuno alla baracchina. Che ha ragione, io la trovo alla capo calato di mangiare. E la piscina di canali. Neanche da fuori mi senti. Qualcuno, qualche spagnolo, ma non sanno pure di sentire. Da quando c'è lo smartphone, il computer, boh, baracchino già li butta a passi. È bello là, sempre va a massimo, già fa bene, non è buono con un telefono, lo smartphone e non fare il massimo. Io non sono un pensiero, bari, fare il tanto di teatro e non fare il ma con lo smartphone trova il capo fuori, ma ci prova a chiudere che in casa, oppure sarà in macchina. E se ci ha portato le cose, si ha preso di nuovo, mi ha detto, ecco, le cose, un po' di tempo, mi ha dato le cose, mi ha dato le cose, mi ha detto, fuori. Mamma, parli. Ma sta venendo un vestito. Hai capito quello che fanno con mamma? Io pigliavo la faccia sui lati dotti. Sì, sul più carino di alta doccia. Luca, aspetta che vado a fare un paio di russi. Tutto poco. Allora non si sa, c'era. Lu. Sì, su bastone. O c'era lì su frizzantino. Luca, chiudi la finestra che sta arrivando il russino di Fantucci. Chiudi le finestre che sto fatto si sta ruttando. Grazie. Mi sa che lui ruta più di te, Luca. Mi ha rotto, uia. 2 minuti e vengo. È vero, Luca la ghecca. Ma potenza, mi. Comunque l'hai messo nel carrello qualcosa? Fare al Pandoro. Cosa? Perché era al Pandoro? Al Pandoro? Quella G, quel coso che sto ordinando a me, l'ho messo nel carrello. Domani fa la ricarica e si prendono i soldi. Sì, l'ho messo insieme al Pandoro. Cosa ha messo al Pandoro? Ah, che non c'è mai. Sì, è già nel carrello. Andiamoci a passare là. Figlia. Ma ne hai, io li prendo. Quanto paghi per ricaricare lui? 1,50. Cioè devi mettere dentro 33,50. Non mi ricordo quanto costa. Adesso ci aspetta dentro su AliExpress. 28 era, mi lascia quanto lo figlio. 28,88. Fallo 29. Più 1,50. Sono 30 e 50, più 2,50 e io ti do, tanto ti devo dare 2 euro dall'altra volta dei cosi, dai, del connettore ti devo dare. Facciamo 35, ti arrangi, dai. Ci sono 204, spedizione, cioè 204. Poi, basta. Non è che si bruciano, no? No, c'ho altra roba in arrivo anche. La sto seguendo. Ah, 6 milioni di persone che comprano qua. Io è meglio di eBay. 100.000 volte meglio di eBay. Devi aspettare però. Addirittura se lo vuoi in metà tempo lo paghi 60 euro, non hai visto? Grazie a quello che stavi dicendo, che Luca adesso, non lo so, non dico ti sovramuto, ma non passi, Luca, metti un altro sul carrello. C'è la notizia, lo stanno ricercando anche i carabinieri. Questo tipo sta vendendo gli smartphone, i telefoni con il computer, no? Allora la gente che ha truffato, lo stanno cercando, non riescono a trovarlo, i carabinieri. La polizia postale forse sulle tracce sue ed è in qualche campagna questo che fa questi giochi, si caccia l'elina e non si manda nulla, si manda lo scheletro del cellulare, solo il vetro. Ah. Ma che Prego, Maria, avanti. Oh. Questo dice la notizia, ieri notte l'ha fatto bene. Attenzione a fare gli ordini. Occhio è, occhio è. Prezzi molto distanti, poni. E dunque, occhio Luca. Cazzo mi hai? Io di Capante San Maria, Favita Graziano, cosa vuoi dire che vi dica, boh? Se si comprende tutta. Perché di questi dici, San Marina. Ah, che mattone arrivi, va! Arrivi, ah, che mattone arrivi, vero lui? Sì, spolatino da uno. Per carità, che... Metti un altro su carrello, lui. Dico. Sì, barattone. Con Bandoro? Sì, e poi il Bandoro, Mattesi. Già si mangiano Mattesi. Ah, un display per un telefono a Luca. Vai, vai. Ebbè, flippa. Eiuia. Sono Maria, eiu. Allora, domani vi siamo? E dove? A parte buona, faccio vai. speriamo che non piove. Mi sa guardare il mette, uisci. Ebbè. Vai, vai. Vabbè, grazie a voi, imbarcato. Aspetta che mi sta chiamando la padrona a fregargli le spalle. Io non credo, no. Non credo, no. Ha messo acqua Massedibra. Per carità, che... Vabbè, tu mi hai detto che un po' di goi, pulo. E lui? Cazzo, guardi un sito, metà Sardegna, da Sassari in giù, è tutto acqua. Guardi la notizia del nuvoloso. Ma che di nuvoloso, tu? Mercoledì pioggia per la Sardegna. La Sassari, la zona di Sassari fa. Ebbè! Antonio Diego, Lucane e Passigenti. E allora va buon travaglio. Che buccia la passeggia, Platavona, Balai, Lungomare. Avanza a piazza, due porta bagagli, una bicicletta, una destra, una derita, si può ricare dritto. E riboccia a passeggiare. E lo slittino, così si fa di girare, tu. La salupa, basta. Almeno si svaga di più. Di appoggio al muro. Gli dal posto, è stato un fratello pesca, pesca di sì, pizza non mi fai via, alla nappa sta. Aspetta che c'è il tonello, dove c'è il tonello? Ciucco ciucco, va, farà due. In macchina è Gilella. Tocca. E lui? Luca Guffo, a tratti sa uscito. Non ci capisco, eh. E tu, ciao Maria. Oh. E allora? Se vuoi fino alla parte della schiena. Non hai preso l'accidente. No, caretto, se vuoi vieni alla parte della schiena. Ah, Etta. Grazie a lui che ha grattato le spalle. Sei più bravo ti fai l'unica d'acciaio, vai. Per carità. Non ho di unica d'acciaio quanto di tu, no? Tu lo dici. Mi prego, non hai fatto la d'acciaio, la dicevi. Tu pareggia. Sei, Luca. Ho visto te. E io? Andate Gio Marina. Io Maria ti vuole la valli la schiena, vai grazie. Ehi, fatti tre spazzole d'acciaio, però brunita, colore giallo-oro, e le altre lo stesso. Ehi, ti sei anche lì. Ti prego a Peppe. Peppe. E allora? Io Maria. Mamma tutto. In te ci vai? Lo sa prendo, non fai a più niente, Eddo, va. Fai il terra, devi prendere la mano, va, Eddo. Ma così, E a te, Rudy, vuoi tirare la frea, come sei pazzo, la grazia. No, ho la spugna morbida e la spugna più prefatta. Una parte c'è una specie di spugnettina un po' ruvida, delicata, rosa, compra lei a me. Mi dice che ho preso la sua roba per la doccia. Capito, Lairo? Sì. Grazie, tu sì che te ne freghi. In modo che la macchina capiamo cosa sta dicendo contro di te. Capisco più a Graziano. Petroliera in Cina affondata, sistema di disastro ambientale, 32 morti già bisogna. Quella petroliera! Ho visto che è il giornale. Oggi stava mi ha benito un petrolio di petrezzo di frutta ai paesi. Tutta bruciata, Con una nave c'è scontrato. Non lo so come è successo, comunque è affondata, c'è rimasta tutta la schiaccia incendiata in mezzo al mare, ancora, figurati, ieri si è tutti i petrolio via. Adesso lo mettono quei galleggianti. Ma c'è del contento me. Guardare il greggio che è rimasto all'interno della nave. Perché nell'arco degli anni che avete frase chiesa si disperde tutto quello lì. Quello me lo dovrete raffigliare, quello che c'è rimasto all'interno. Vai dirlo tu, chi ti ha fatto scuola? Schettino a te. E allora, mica io ci ho lavorato in marina, amica, e l'ho fatto. Bene, avete lavorato in marina, ti fate già mezz'acqua e rotti dei navi. E allora, ero in fuggeria, in armeria, ero addetto alle armi, e la pelle. Che ti usavano per gonfiare i canottini. Alle scuole scemme, prima la Spezia e poi a Taranto. Maga la Spezia, che ce l'ho detto pettine, non ti sei già pensato tu? E allora, è bello la Spezia, Cometti dalla stazione c'è tutto il viale alberato di Aranci, Rancici. Iluminero. Dai, mi sono visto a destra del c'è il ponte che attraversa sotto il fiume Po. Cosa è successo, Grazia? Avevo gli arancio questa strada e l'ho preso. L'ho capito, cosa è successo, perché? Ha detto che ha fatto, è stato in marina, ed è chi che ha imparato a trattare acqua scooter? Non lo sapete ancora, E anche a galleggiare. E te. Anche a galleggiare ti insegnano in marina. Ti guardare così a Graziano. L'ha fatto un po' di mestiere. A scappare il morto. Stai a guardare così, no? È esperto in tutto, Graziano, E allora, non vedo un mostro gioco. A me, i piedi, quattro, già andate. Non sono riuscito a regolare un portoncino. Non lo state tirando in questo fuori piombo, un centino e tre mesi. Sono andato io, 5 minuti. Il portoncino apre io, tutte e quattro le mandate. Un bel due minuti va giù bocci. Tutti fuggiti sono meno. No, non vedo che ha chiamato il burattino di Cardinopoli di rivendere portoncini di piazza. Tutti che travaglia la muru. Non fai andare, a chi non fa il buono. E che ti la piazzato fa pure un bagaglio, peggio basse. Sì, ci sono fratelli amori imprevisati. Luca! E allora? Quindi lei rimane in città verso di Canada. Rifattila! Tutto un placcato di terra, ne farei la bovita! Tutto muffa! Ne hai visto ieri al televisione? A figliolina! No, non l'ho visto, grazie. Ma le nuove che hanno costruito o quelle che hanno ristrutturato? Quelle che hanno ristrutturato ancora, costrate, impianti, vai facile, tu placcato tutto in terra, è nata la cucina, la bella volta della cucina di questa banca, uno schifo qua. E gli doppamenti, dagli si c'entra, è come se non mai baffone, dagli piove ci sta la tutta la casa. Arrasa l'impresa che gli anni la tua affatto. Non ti dico capire. Non lo sai che l'ente, basta che paga poco. Poi paga poco e poco, eh. Tu spegni baracchina, io che non ho di modulare. Figlia. Ma così non andare a chiamare tutti i figli in una vetta di luce e si paga lì. Tutto il travaglio che ti è arrivato. Arrasta l'impresa che va a segni, poverini. Vuol dire che ha trattato la vina a vino. Per carità. Grazie a fatte bruciare. Arrasta gli occhi, per carità. Lo sono attaccato, hanno trattato, non è nulla. Ma è strano, molto strano che non ha già attaccato, Bisogna, sai, possono essere tante cause, magari c'è la pittura sotto, non si via, tante cose. Ma quando vai con lavori di qua? Dai, mi piglia, mi piglia di due o tre da carriera, io mi dato in piscina, mi rata, e la vita sta a fare proprio da me. A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me. Ma i stipendi a tirare i biglietti, sì? Ma sicuramente l'hanno dato di ufficio, amici, non si preoccupa, lo grosso si ramagnate, sta pigliato a parte. Ma questo si ramagnate a farmi risposta. A chi dici non può entrare niente, e chi dici si sono indennizzate le finestre nel buco. Grazie. Oramai io su, alla dichiarare il fallimento, tutte le cose, non lo sai. E a 6 anni muovi, oramai si hanno pigliato. Quello già lo so, già è vero che fate le luci di chiamare in fallimento. Ma ancora stanno lavorando però lì. Non li hanno finiti, stanno ancora lavorando, capito? Sto fritto di andare qua. È andato ieri, hanno fatto vedere la figliolina, andando qui da qua a vedere lo stato, questo era la porta. Ma mi dica lì, ma questo bagno è stato, va, tutti i tempi a scuola. Una vergogna qua. Ma l'impresa di Sassarino o di fuori? Ma te lo so dire se è di Sassari o di fuori, quello non so, perché io quando ho girato sono stato a già vicende per mi di le riprese che hanno fatto. era già più di metà del corpo quando io ho girato la stessa sassa e la faccia del sorriso si chiamava. E anche a vaso aveva la parte di risoprire dentro tre continentali. Ma non tutti, aiuto, se vedi quella cosa che era là, da, non da così, da quindi, aiuto, ma grazie, papà. E ha fatto un placcaggio, in falegnameria e pavimento, che perché era il compressore, però l'ho fatto in grazia di Dio, nonostante lì che mi dice non ci perdere tempo, ma ascolti, io la cosa lo so come l'ha fatto bene. Se vuole lo faccio bene, io a cazzo di cane non viene qua. E allora sai come ci sia, a chi voglia far bene. Sono girato a videolina, ma c'è un telegiornale. Ieri l'ha detto, magari oggi era il giornale, non te lo so dire, non ho preso il giornale. Ieri mi l'ho visto, ieri sera, il telegiornale ieri sera. Oggi non ho preso il giornale, magari era il giornale, in quello di oggi, perché era ieri, poi era ieri, e oggi magari è tutto il giornale. E aveva si soppiando l'abitudine, no, che pure ha trattato un cartongesso, ha fatto tre mesi. E la signora lo so, va. Ma è dopo gli interessi, non va con gli interessi. A cui non si manca le piacere tu, a chi ha le piacere, le mani che si sono in giro a questa piacere. La cosa che mi ha cambiato, tutta la cosa di te, ma a me, ma a me che mi continuo con gli strategiamo in giro. Oh, tutto, tutti gli paesi, come va con gli paesi. A quelli stanno. E a pagare la regione torna. Perché i lavori devono finire, c'è gente che sta aspettando quella a casa. Sì, ma se fai lavori così, cazzo, ma travagli. La faccio vedere una finestra, aria da distribuire, senza guarnizione, senza luce, dopo tutte le fritte dell'acqua all'interno, sotto la finestra, come quando piove, rientra tutta là. Ma stiamo scherzando, e poi mi dice, mi dica di fare in alluminio, no, non mi dice, in alluminio pulito, sì, ma abbia qua. Ma, avete girato la videolina, vediamo un po' cosa lo dico. Ma non posso vedere, oggi magari era in giornale, se procuri il giornale di oggi. Da ci sarà anche su internet, su Telesassa, in Telenotizie, un momento si chiama. Cazzo, già da TeleG, ma no, non ce n'è. Lì se guardi su internet di ieri, nel giornale tardo di ieri, forse te lo fa vedere. Se sa fare notizie c'è senz'altro. Prova a guardare lì e lo dico. Pino! Uia! E lui! Un craghetta! Adesso, invece che ci guardo su Sassanutizia. Ma per cosa? Tutte quelle porcherie che hanno fatto nelle case le casette in Canada. Quelle che stanno ristrutturando, si sono fatte dei placcaggi, entrare vado a baldare i vacconi. E massetti fatti a montagne russe, vera così in Agudi, in Stati Uniti. Ma quelle che hanno pito da poco? Non la cosa. Ciao Tino. Parano. Ehi Tino. Non lo sento. Tino. Ehi. Ehi, vieni avanti, Tino. Buonasera. C'è, forse da Luca, ma passo, Luca, Luca è mangiando mendola, pandoro, da quando non fuma più è sempre a bocca piena però. Ma. Luca, che so Sandra? Però mi ha dato risposta, mi ha dato un messaggio ieri. Però mi ha detto da sapere e chiedo qua a casa a vedere cosa. Vedi un po' tanto domani. Dovrei essere in giro a fare un po' di consegne, eh? Tanto domani sono libero, capito? È bello! Luca! Oh! Ehi! Ma gasseggiamenti però! Ha mangiato, sai, lui! Sembra bocca piena, Ah, io l'ho mangiato tutti i mendola! Gente, da quando non è più fumenti! Passa, il pomeriggio mangia di mendola, mangia di pandoro, mangia di caccomela, sempre mangia di... Le gocce hanno fumato. Si dovrebbe comprare le pacchette di giustizia in farmacia, e se no Nicoletti, si brucia Nicoletti. A Nicoletta? Nicoletti. Ma per aggiunto, bella della sigaretta elettronica, un po' da... cantiere, o si buoni ugni, o si buoni la paletta americana, forse più non si gendi, Ma già, a girare cari truoni, quando andate a girarci la cosa, a me si va a dei cicci, si girano gli intendi, girare cari truoni, ma chi tu Nicoletti dove è che funziona? Quello è uno spray che vende in farmacia a base di ricorsi. Se mi brucia e c'è il sapore della sigaretta in bocca. Allora avevo figlio a Luca e questo regalo. Un culo di baci. Mi sparisci che regalà una stoppa di lecce a sapore. Anche un buco. Ma è magnendi, dove è cucendo? Ma è magnendi, si mangia i cani. Ma dici di non mangia sta lui? Già sei? No, non mangiano. Poco mangia, no. Ma non sai come se gli dici a Martina al piatto, no? Ciao Marina, mangiando sta. Ciao Marina è come il cucù. Luca! Cucù! Ma Luca io? Ma mangiando! No, io ho finito di mangiare, no. Tanto poco fa quella lì, quella pasta, a Puglia, basta. Sono andato a casa. E mangi a casa, l'ultima. No, mi bevo un succo di quelli fermenti lattici, sono buoni, sono nutrienti anche. Ma Luca ha detto che stai mangiando un bel. Di la verità che avanti a casa e torna a mangiare. Dice a mamma, ma cosa hai cucinato? Ammettilo. No. Mamma non cucina la notte, cucina più tanto per lì e basta. Penso che sia mangiata qualcosa da pranzo, ma a me la roba fredda non mi piace. No, poi non ne ho voglia manco di mangiare. Va bene così. E vediamo cosa ne pensa Luca Buffo. Aspetta, vado sul caffè di notizie se c'è. Guarda a vedere, per carità. Ciao Marina, non mi così. Sono surlegando. Fatoni a voi. Ma poi riscendi, ritornare di tutto. No, io domani mattina mi devo stare presto, grazie. Cosa dici? Se ne cambio un po' di pappa. Vado a farmi insegnare a mamma e poi... Manguli. Capisco. Io me ne alzerò alle 6, là. Me li è brutti, buonanotte a tutti, ciao. Andando stai, lui. Andando solo, non tanto da casa non vi sento. Sì, vabbè. Ciao, allora, domani. Ci sentiamo. Buonanotte a tutti, ciao a tutti. Ciao.